Stravai fra Chiodenza Cugnoni e Smirgalotti Ravò. Ilan, bolscevico, cambia disco. Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Comunista bolscevico, Milan Setung, Setung, Setung. Setung. Piegati al sistema che non siete altro. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Carissimi ascoltatori, siamo qui dalla ridotta di Viale Monza in collegamento con voi per una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan e ci siamo tutti, tutti, da Filippo Aureggi in regia anche oggi. Vabbè, Filippo Aureggi in regia. Ale. C'è oggi Jacopo De Franchi che ci aiuta a fianco a lui e la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. E udite, udite, come ci scrive Claudia, giuro, messaggio di Claudia, arrivato testé, scrive Claudia, ormai aspetto calabresi come si aspetta l'amante. Un bacio a tutti. Peraltro Claudia ci sta dicendo di avere l'amante. Mario Calabresi, buongiorno, eccoci buongiorno, qua. Giuro, ti giuro che faccio la foto, faccio lo screenshot, la foto di questo messaggio, te lo mando per dire che non mi invento nulla. E poi non so perché avevamo incominciato, di solito venivo lunedì, martedì, adesso invece è il venerdì. Il venerdì, abbiamo scoperto, ecco, non abbiamo detto una cosa, giovedì gnocchi, detto, giusto? Giovedì gnocchi, che dopo è arrivata una bellissima mail sia a me che a Milan, che ci racconta la storia di giovedì gnocchi, che è una storia antichissima romana. Stupendo, esatto. Tu fai venerdì di Mario, Venerdì di Mario, esatto, bella, ecco. Venerdì Mario, esatto. Esatto, è un buon inizio. Allora, dai, abbiamo tante cose da dire come al solito e allora, caro Filippo Aureggi, parti pure, vai col solito entusiasmo. Dai, entusiasmo. Allora, caro Mario, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, davvero è abbastanza incredibile. Noi ci lamentiamo dei nostri politici, ma l'uomo più potente del mondo, come viene definito, il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha lanciato questa teoria del disinfettante nel corpo per sconfiggere il coronavirus. Io veramente vorrei entrare mezza giornata nella testa di Trump per capire esattamente che cosa lo spinga a fare questo tipo di uscite. Vorrei saperlo, sarebbe stupendo riuscire a capire esattamente. Vogliamo risentirlo, vai Filippo, vogliamo risentire. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or cioè, alcune parole magari le capiste anche voi, disinfectant injection, cioè ha detto di iniettarsi il disinfettante, poi c'è qualcuno che magari lo segue davvero e Mario lo fa veramente, no? Perché, tu lo senti, la cosa incredibile è che lui parla a una pancia di persone che non hanno studiato, non conoscono, non sanno come sostanzialmente su questa malattia siamo tutti nel mondo, ma dice una cosa come la direbbe un bambino, come possiamo desiderare, uno dice ma cavoli, ma se uno potesse infilarsi dentro un disinfettante e ripulirsi da questa malattia, dal senso della frustrazione, io credo che nessuno lo prenda cioè lo prende in parola. Lui, sapete, il presidente degli Stati Uniti è commander in chief, comandante in capo. Ho capito, ma lui nessuno non è comandante lo prende in capo di sicuro in questa questione sanitaria. No, ma nessuno, neanche da lui, lui che esagera su tutto, nessuno neanche da lui si aspetta più una correlazione tra quello che dice e la realtà. Quello è che, un modo di... Cos'è? Un di... format televisivo allora? È sì, diventato. È un modo di esprimere una frustrazione, un modo di fare una cosa che fa spavento di fronte alle dimensioni del fenomeno. Adesso è stata un po' datata, tracciata l'epidemia come è stata negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti è partita all'inizio di febbraio, cioè è partita sostanzialmente insieme all'Italia. E quindi oggi ha una dimensione che è molto più grande di quella italiana. È anche un paese che ha 5 volte gli abitanti dell'Italia, cioè 300 milioni di abitanti. Però è tutto questo mentre serenamente per più di un mese Trump diceva che questo qua era una cosa inesistente, che non era un problema, che era una manovra politica. Però questa delle dichiarazioni per cui molti hanno cambiato idea, tanti l'hanno fatto, no? Ci sono stati tanti politici, ma lui, come dire, persiste con questa appunto narrazione un po' surreale, ecco, l'idea del disinfettante nelle vene, è una roba... Adesso a me non piace mai fare quello che il tiro al bersaglio su Trump è così come sui politici è troppo facile così. Però c'è stato un libro 2 anni fa di oltretutto di un giornalista conservatore che ha passato del tempo con Trump alla Casa Bianca, Michael Wolff, e raccontava come vive e raccontava questa immagine che a me ha colpito molto di lui seduto sul divano con un carrello davanti che ha non so, ricordo più se 4 o 6 televisori, i telecomandi allineati, nessuno li può toccare sul tavolino, e cambia continuamente canali per vedere di cosa sta discutendo la gente, cosa si pensa. Sì. E accanto a questo ha dei vasetti di gelato dell'Häagen-Dazs col cucchiaio. E mangia non la coppetta, avete presente quel cartone lì che se uno se lo mangia tutto davanti a un film poi diciamo così vai in... Cioè hai fatto il profilo del sessantenne, guarda la televisione e mangia il gelato, c'è un qualche cosa di adolescente, di ragazzino, di reattività, e per cui esce fuori e dice ci vorrebbe il disinfettante in tutto il corpo, però le persone non è che i suoi elettori non è che lo prendono dicono, sul serio. Ma no, ma che cosa stai dicendo? Tecnicamente non è corretto. Dicono, hai ragione, ci vorrebbe. Capito? Sì, hai fatto il profilo del sessantenne che potrebbe trovarsi così se davvero lo rinchiudono in casa dal 4 maggio. Sto scherzando, no? Col gelato a Gendazzo. Però, Mario, poi ci sono tante cose che ti vorrei chiedere anche sulla tua newsletter. Devo però salutare un ospite. Prima vorrei chiederti una cosa che non ti ho chiesto. Insomma, c'è stato un mezzo terremoto nell'editoria italiana con cambiamenti ai vertici di Repubblica e Stampa, 2 giornali che tu hai diretto, e quindi insomma ti devo chiedere che cosa sta succedendo secondo te. Guarda, diciamo una cosa, io ho fatto appunto il direttore dei tuoi 2 giornali e non è una roba che uno si mette, dopo che è andato via, si mette a dire come, dove, quando, a dare giudizi, eccetera, eccetera. Ho questo stile che ne sono uscito e osservo come osservano tutti gli altri. Anch'io lo scorso anno sono, diciamo, uscito in maniera molto drastica e anche faticosa. Quello che vedo però è che il momento dell'editoria e dei giornali è il peggiore che ci sia mai stato nella storia. Non è mai stato così difficile. E in questi momenti di crollo, probabilmente si pensa che ci vogliano delle soluzioni radicali per tentare di tenere in piedi quel sistema. Quello che io mi auguro è che Repubblica, Stampa, ma i giornali italiani, perché io sono romantico, li amo profondamente i giornali, trovino dei modi nuovi che rispondano ai bisogni dei tempi. Le persone vanno sempre di meno in edicola, leggono sul telefono, come sappiamo, che rispondano ai bisogni dei tempi, ma che salvino la possibilità di fare giornalismo di qualità. E se questo sforzo andrà in quella direzione è benvenuto, ma io spero che ovunque ci sia uno sforzo di cambiamento, di innovazione per salvare ciò che è fondamentale. Che ci sia una salvezza, sì. Per i giornali che anch'io adoro profondamente, insomma, toccare la carta, ogni giorno è il primo gesto che faccio proprio andare in edicola e prendere in mano la carta. Allora, intanto, io vorrei dare il buongiorno, caro Mario, volevo dare la voce a una mamma che rappresenta in realtà tante mamme che hanno, mamme e papà, che hanno figli con diversi tipi di abilità, con disabilità. Saluto Martina Fuga, buongiorno. Buongiorno Martina, buongiorno mamma milanese, mamma di Emma, signora, che ha la sindrome di Down e che si è unita, cerca di unire gli sforzi con altri genitori a dire: oh, care istituzioni tutte, vi rendete conto che coloro che hanno i figli disabili sono doppiamente abbandonati? Cioè, è chiaro che le scuole sono chiuse, i parchi sono chiusi, bisogna stare in casa, ma adesso siamo anche da soli, cioè a fronteggiare situazioni in alcuni casi estreme. Allora Martina Fuga, cosa chiedono secondo lei i genitori che hanno figli con disabilità? La cosa più importante, più impellente? Beh, sembrerà retorico, ma chiediamo di non essere dimenticati. E il problema è che quello che ci stanno dimostrando è proprio questo, che non si pensa ai nostri ragazzi soprattutto e anche alle famiglie, perché i ragazzi sono totalmente in carico alle famiglie e questo in situazioni di disabilità come quelle di mia figlia Emma è una cosa fattibile, ma ci sono disabilità anche molto più gravi e in cui le famiglie non ce la fanno. Il problema è che in momenti come questi di crisi e di emergenza chi rischia di vedere negati i propri diritti sono proprio le persone con disabilità, le persone più fragili, e si vedono aumentare improvvisamente le disuguaglianze. Sì, ecco, devo dire che questo è un punto fondamentale. Non so cosa ne pensi Mario, cioè c'è una selezione, lo dico questo aggettivo brutto, darwiniana, per cui in questa situazione di emergenza i più forti in tutti i sensi, anche quelli economicamente, sopravvivono, e quelli che sono i più deboli a tutto tondo soccombono. È insopportabile questo tipo di selezione, passatemi il termine, ma di fatto è così. Voi Martina Fuga come lo vedete in concreto questo tipo di discorso? Ma, allora adesso io parlo della scuola per esempio, che è la prima la cosa più evidente, ma questo viene anche nella sanità, ahimè, temo. Solo che in Italia se ne parla poco, si è fatto tanto scalpore anche sui giornali, anche sui nostri giornali italiani, di quello che avviene nei paesi nordici piuttosto che negli Stati Uniti, no? Dove si sceglie chi curare, ma io ho questo spettro dall'inizio dell'epidemia anche di quello che può succedere in Italia nel momento in cui le terapie intensive sono piene, si sceglie chi curare, ahimè. Detto questo, la scuola è un esempio chiarissimo di come i nostri figli vengono lasciati indietro, perché già la scuola italiana, nonostante sia un'eccellenza, io ho vissuto anche all'estero con la mia famiglia, i miei figli sono andati a scuola in paesi stranieri, anche in Francia, dove ci sono ancora purtroppo le classi speciali. In Italia è da 40 anni che abbiamo l'integrazione prima e l'inclusione poi, quindi siamo un esempio di eccellenza, però l'inclusione è ancora un miraggio, nel senso che abbiamo la legge migliore del mondo che ci garantisce, ma di fatto nella pratica ci sono ancora delle difficoltà. Quindi le disuguaglianze che c'erano prima, ahimè, ci sono anche adesso. Adesso vanno sono esponenziali. Perché, per esempio, quello che chiedono molti genitori è dire: ma davvero non è possibile avere gli insegnanti di sostegno a casa? Noi per la verità avevamo sentito qualche comune che lo faceva, certo comune magari piccolino dove le realtà sono un po' più... Ma forse parlavano di educatori, che è una risorsa diversa. L'insegnante a casa per me è una follia, sinceramente non credo che sia questa la soluzione. L'educatore è già un altro tipo di risorsa, perché noi dobbiamo pensare che per i nostri figli le risorse non sono solo gli insegnanti, cioè non c'è solo la didattica, ci sono anche gli aspetti educativi. che in questo momento sono quelli più penalizzati, perché io personalmente vivo bene anche se mia figlia non impara il teorema di Pitagora, non so come dire, no? Però ho bisogno che lei continui ad allenare una serie di competenze relazionali e sociali che poi nella vita le serviranno più del teorema di Pitagora. Ma sì. Posso chiederle una cosa? Lei che la vive addosso tutti i giorni, in pratica ci dice una cosa che per esempio sarebbe importante fare? Allora, beh, innanzitutto sarebbe importante che i nostri figli potessero accedere a delle risorse adeguate a loro. Cosa significa? Significa che non è possibile inviare ai nostri figli gli stessi materiali che inviano agli altri ragazzi. E così come non posso, perché questo succede, cioè vuol dire, ma questo succede, cioè non c'è un'attenzione particolare, mi sembra incredibile. Allora, innanzitutto gli alunni hanno un tot di ore di sostegno, no? Che magari soprattutto i gravi e i gravissimi hanno 18 ore di sostegno. In questo momento le ore di sostegno non sono 18, perché se ne fanno 6 o 8 con l'insegnante di sostegno, e già questa è una cosa che li penalizza. Poi arrivano i compiti su WhatsApp, i compiti su il registro elettronico, cioè anche gli strumenti vanno, c'è bisogno di organizzazione. Se noi pensiamo, non pensiamo solo alle disabilità motorie o sensoriali, pensiamo alle disabilità intellettive e relazionali. La confusione che può avere in testa un bambino o un ragazzo che ha input in diversi strumenti, in 3, 4, 5 strumenti. Cioè, se non ci sono delle procedure organizzate e degli strumenti adeguati, è veramente difficile. È chiaro. Io penso qualcuno anche poi... al futuro. Adesso hanno istituito questo comitato di esperti, no? Noi ieri ci siamo arrabbiati l'ennesimo comitato, ma è possibile che in un comitato di esperti non ci sia un esperto? Ci sono grandissimi nomi che stimo tantissimo, non voglio far polemica su chi c'è, però la voglio fare su chi non c'è, perché non c'è un esperto che conosca la disabilità intellettiva e relazionale. Come pensano di organizzare delle procedure e delle modalità comportamentali per dei ragazzi con autismo, questo è un po' un problema. Mario, si è parlato di task force della protezione civile senza neanche una donna. Adesso si fa una task force sulla scuola e non c'è una persona che si occupa di tutti gli studenti che hanno delle diverse abilità cognitive o relazionali. Mi sembra abbastanza incredibile, o no? Sì, lo è. È abbastanza incredibile. È spaventoso. È quello che stiamo capendo questa mattina, è come appunto nello sforzo, perché c'è lo sforzo della scuola e degli insegnanti di tenere un filo con gli studenti, però ci sono chi è più debole o chi ha meno capacità, anche capacità semplicemente di avere un wifi, di avere i giga, di avere un tablet, eccetera, eccetera, che resta perduto indietro. Mi ha colpito una cosa, che in Francia provano a riaprire le scuole tra 2 settimane e Macron ha detto dobbiamo provare a farlo perché ci sono troppi pezzi di ragazzi, di studenti che stiamo perdendo per strada. È proprio il senso dell'idea dell'uguaglianza. Però c'è questa idea qui di perdere per strada, sì. Sì, e invece in Italia, anche in Svizzera, la nostra Elisabetta Fosconi ovviamente ci ha fatto sapere che in Svizzera riaprono le scuole in maniera trionfale, ce l'ha detto, però è così, in Danimarca sono già riprese, eccetera. Allora, io nel ringraziare Martina Fuga, ci sono anche delle petizioni, per esempio ce n'è una su change.org, una delle piattaforme più utilizzate per queste petizioni, lanciata da Antonella Perini, la trovate, anche lei ha un figlio disabile, per dire fate qualcosa, ecco, se volete studiare il caso, andare a cercare queste petizioni, sottoscriverle, tante volte anche una serie di firme virtuali può fare pressione. Ringrazio Martina Fuga. Senti, Mario, giusto per rimanere negli Stati Uniti, mi dicevi che oggi leggevi il New York Times e c'è un paese molto particolare, noi non ne abbiamo mai sentito parlare, dove il coronavirus sta facendo grandi danni, grandi. Sì, una strage. Ed è incredibile perché non ne avevo la minima idea, è l'Ecuador, un paese che sta sul Pacifico, Sud America, tra la Colombia e il Perù. E in Ecuador c'è una strage, i morti sono 15 volte di più di quelli che loro avevano stimato, ed è un paese relativamente piccolo. Nessuno capisce perché lì, in questo modo, forse ha dei rapporti diretti con la Spagna, economici, perché lì sì e non in Perù o in Colombia. Però questo raccontava di come non sono assolutamente in grado di riuscire a stare dietro a questo, che ci sono questi ospedali dove ci sono i morti agli ingressi, ci sono le cataste, ahimè, di morti negli ospedali, e che vengono sepolti, le persone se li vanno a cercare, a riprendere, vengono sepolti in bare di cartone. Beh, allora, questo ci dice una cosa, mi ricollego al discorso che faceva la signora Martina. Le parti più deboli restano indietro di fronte a questo virus e sono le più colpite. Questo succede negli Stati Uniti, dove appunto c'è questa differenza sanitaria, dove vediamo che la maggior parte dei morti sono nelle parti più povere della società, della popolazione. Questo sta accadendo nel mondo, nei paesi in cui non c'è capacità di reagire, in Sud America. Il posto dove oggi c'è il terrore, io l'ho raccontato oggi nella newsletter, è l'Africa. Di cui si parla tanto, però, cioè è tutto un po' misterioso, no? Nel senso, non si capisce bene quanto questa bomba. In Africa c'è un posto di terapia intensiva ogni milione di abitanti. Eh sì, è questo il problema. Quindi è come se non esistesse. Diciamo così che quando arriva il virus, che è arrivato e è partito da poco, è quasi tragico dire che farà la sua selezione, il suo corso, e molto sarà il caso, molto tra sarà la capacità. Tu nella newsletter, appunto, Mario Calabresi, potete intervisti un missionario che peraltro è il fratello di padre Dall'Oglio, medico, scomparso in Siria. Un medico, fratello del gesuita scomparso in Siria. Quello che è scomparso nel 2013 in Siria. E ovviamente lui è il bianco untore, è il bianco da cacciare, da additare. Che lui è lì il medico, però la gente, quando sa che è medico, cioè lo vede bianco e che è italiano, ha paura di lui, perché dicono, lo apostrofano per strada dicendogli corona, perché hanno il terrore che arrivino, che i bianchi, gli occidentali, gli portino la malattia. Io tra l'altro sono riuscito, scusa se te lo dico, ma io il pomeriggio faccio delle dirette su Facebook alle 18.30 sulla mia pagina Facebook, e oggi pomeriggio riesco a collegarmi con lui. Può rubare il mestiere, capito? Esatto, no, ma quell'ora lì non ti va bene. Mi collego con lui da l'Uganda per raccontare con uno che sta lì che cosa succede in un pezzo di mondo di cui oggi è completamente fuori dai nostri radar. E allora raccontare, per esempio, cosa anche succede in Africa, questo naturalmente non sminuisce, oggi noi il problema drammatico, ahimè, ce l'abbiamo in casa, ma però sì. Questo problema è un problema mondiale, non è no, un ma problema è bene ogni tanto anche allargare gli orizzonti. Senti, ti volevo chiedere, in conclusione di questa prima parte, c'è una cosa che mi ha colpito, sulla quale non ho un pensiero preciso. C'è questo scandalo, viene definito così su alcuni giornali, per esempio leggo una pagina sulla Verità, delle fatture date ai parenti dei morti che sono stati cremati, morti che non sono neanche stati salutati e sono stati portati fuori regione dai camion militari, eccetera. E a questo punto stanno iniziando ad arrivare a casa anche le fatture da pagare per le cremazioni. Perché dicono no un pensiero? Perché io capisco tutto il dramma, tutta la tragedia. C'è da dire che qualcuno ha fatto un lavoro e quindi questo lavoro dovrà essere in qualche modo pagato. Secondo te lo Stato si dovrebbe accollare in questa situazione anche il pagamento di queste fatture oppure no? Guarda, non lo so, non ci ho mai pensato. Certo, ti arriva la fattura, però tutti noi, ahimè, abbiamo pagato anche le salate fatture di quando c'è scomparso qualcuno e abbiamo fatto i funerali, abbiamo fatto le sepolture, sappiamo quanto costa una tomba, eccetera, eccetera. Io credo questo, credo che di nuovo per le persone più fragili, più in difficoltà, eccetera, eccetera, ben venga un aiuto, però non lo so, son cose molto difficili su cui diciamo rispondere. Che poi io penso che se lo può permettere, allora è normale pagarlo, è tragico dirlo, è tragica la morte, però. È come se uno dicesse allora io però non pago la sepoltura, non pago la tomba, non lo so. No, è tragico che avvenga anche così, c'è un'agenzia che ha lavorato, c'è un'agenzia funebre che quel lavoro, come dire, lo reclamerà qualcuno, nel senso che dovrà essere pagato da qualcuno, però quindi non capisco. Se voi ascoltatore mi dite, so che compaiono i primi parenti che dicono guardate, ci hanno anche mandato la fattura, ripeto, non, capito, col massimo del rispetto non ho una posizione chiara a capire che cosa bisogna fare. Vabbè, cioè, quindi tu alle 18.30 e siamo grazie al cielo in una sanità che per quanti problemi abbia sta curando tutto questo senza che nessuno paghi nulla. Certo. Se no andate a farvi dare il disinfettante da Trump, se volete. Ti dico solo una cosa, negli Stati Uniti, a New York, il governatore Andrew Cuomo ha dovuto mandare i soldati negli ospedali privati per requisire i ventilatori da utilizzare negli ospedali pubblici. Perché non aveva i ventilatori, c'erano gli ospedali privati che li tenevano, però dicevano no, ma questo è il nostro patrimonio, e lui gli ha mandato i soldati a prenderli. Allora, noi con tutti i problemi che abbiamo avuto, però abbiamo avuto una sanità che perché dentro gli ospedali ce l'hanno messa tutta, poi se ci sono stati dei problemi di logistica, di organizzazione, le mascherine e tutto il resto, diciamo non sono problemi che di responsabilità di chi sta negli ospedali, ma tutta questa sanità ci è stata data gratis, cioè grazie, la paghiamo abbondantemente con le nostre tasse, intendiamoci, sì, gratis, no, però non ci è richiesto di pagare qualche cosa di quello che sta accadendo, capito? E questo virus non è colpa del nostro sistema sanitario. Caro Mario Calabresi, noi ci sentiamo, tanto da qui al 4 maggio i giornali parlano solo del 4 maggio, ogni giorno sarà un giorno in meno di avvicinamento al 4 maggio, qualcosa il 4 maggio succederà, lo scopriremo solo vivendo. Io ti ringrazio molto. Allora alle 18.30 se volete su Facebook sentite Calabresi, niente, rubo anche ascoltatori alla Zanzara, è un disastro, verrò licenziato in diretta. E... Scusa, ma io voglio sapere una cosa, ma tu il 4 maggio prevedi di uscire dalla tua ridotta e di tornare io non lo so, c'ho il problema come tutti, che cosa faccio con i figli che non vanno a scuola, non lo so, diciamo vivo, uso un'espressione così all'africana in maniera positiva, giorno per giorno, oggi sono qui e domani vedremo, è ovvio che se torno io tu sei obbligato anche a tornare, se no Claudia che manda i messaggi e ti attende come l'amante, non sa cosa fare. Grazie Mario, un grande abbraccio. Un bocca al lupo a tutti. Buona giornata. Andiamo un attimo in pubblicità, poi abbiamo tante cose da parlare. È il Radio Day dedicato alla scuola, qualcosa abbiamo già detto con Martina Fuga, ma ci occuperemo ancora di più di scuola, di come ripartire. Andremo a Scampia, sentiremo Fiorello, c'è Leonardo Vestaglione a Manera, tante cose da dire dopo la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Alessandro Milan, ciao. Potresti fare la traduzione della sigla qua che canti in russo, così almeno capisco cosa dici. Non hai una gran bella voce comunque, niente impostata, un po' sguaiata. Dai, rifalla questa sigla. A Trump bisogna dire quello che abbiamo imparato anche noi, gruppo di amici. dopo una serata alcolica tutte le idee sembrano buone, per quello le valutiamo sempre la mattina dopo, mai subito, perché tutto sembra una buona idea dopo una serata alcolica. Ascoltatrice, a proposito di serata alcolica, mentre chiedo a Filippo di togliermi per ascolto perché sennò sento la mia voce, a proposito di serata alcolica, appunto, è una sigla nata così tra un bicchierino e l'altro, e quindi lasciamola così questa sigla. Ma voglio accogliere Leonardo Manera, Leonardo Vestagliona Manera. Ciao Leonardo. Gianni Berra, Marco Alleni, Mario Rossi, Giovanni Bonzi, Esther Marini. Bene, sì, l'ho fatta. Tuoi compagni di liceo? No, ho nominato anch'io la mia task force per uscire dalla fase 1 e entrare nella fase 2. Anch'io ho bisogno di supporto. Non c'è una donna? Non c'è una donna? Sì, Esther, no, l'ho messa, Esther Marini. Paolo Roberto Falcao, che ricordo un po' Colau. Giusto, la Task Force Falcao tu hai. Quindi sì, dobbiamo Falcao. Chiamarlo la Task Force Vittorio Colau. E mia Falcao. Perché anch'io devo sapere come uscire dalla mia fase 1 e dalla mia fase 2. Non mi sento in grado da solo di decidere. Perché alcuni hanno la task force e io no? La voglio anch'io, la mia. Ti vedo molto pimpante questa mattina. Bella la task force Colon. Ti piace? Me l'hai creata tu di fatto. Tra l'altro non hai neanche 60 anni. Senti qua il tuo amico Fiorello. Oggi sei di un polemico. Senti Fiorello. Salve, buongiorno. Sono Rosario Fiorello. Sono nato il 16 maggio del 1960. Significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso quindi i 60 anni non possono uscire. Io non ce li ho ancora. Quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire. Ma noi sessantenni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, per cui se dicono che i sessantenni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio, siamo persone da proteggere. Noi andiamo protetti perché siamo un po' come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell'Himalaya. È così, cercopiteco. Tu sei tranquillo, Leonardo, ne hai appena compiuti 53? Io ne ho appena compiuti 53. Fiorello ha ragione, insomma, mi sembra una decisione ancora tra l'altro da ratificare, ma discutibile. Però mi chiedo anche, ma Fiorello non era quello che diceva quanto è bello stare a casa qualche tempo fa, che ci ha convinto? È vero. Ma devo dire che anche lui soffre un po', evidentemente soffre un po' anche lui. Devo dire che Colon, ormai lo chiamo così, Colon, la Task Force Colon, ha calcolato che 20 morti su 21 sono oltre i 60 anni. E quindi io me lo immagino, il tecnico Colon che prende questa decisione, o vuol prendere questa decisione, e il politico Conte che di fronte a questa decisione vede i voti perduti, no, ma come faccio i sessantenni, i voti, cioè c'è il tecnico che dice ma guardi i numeri, presidente Conte, effettivamente, e il politico che è disperato perché una decisione del genere farebbe perdere un consenso dietro l'altro, no? Beh, però adesso francamente dovrebbe essere una decisione che spetta la responsabilità personale. Difficile immaginare che uno Stato possa impedire per legge sessantenne sulla base dell'età di uscire di casa. Infatti non succederà. Comunque, caro Leonardo, dopo dobbiamo dire una cosa di un nostro spettacolo, tra un attimo, però oggi c'è il Radio Day di Radio 24 dedicato alla scuola, quindi ci sono diverse trasmissioni, tra cui questa che si occupa del tema scuola, a capire come ripartiremo, che succederà. Noi siamo andati e vogliamo andare in un luogo dove c'è una preside combattiva, l'abbiamo già conosciuta, Rosalba Rotondo, dirige l'Istituto Ilaria Alpi Carlo Levi a Scampia, Napoli. Buongiorno, professoressa Rotondo. Buongiorno, dottor Milan. Ricordiamo anche che lei è stata premiata di recente dal Presidente della Repubblica per la capacità di aver incluso 250 ragazzi Rom a scuola. Attività che prosegue, se non sbaglio, no? Se ho capito bene. Certo, senz'altro. come? Cioè, in so questa che... fase particolare, perché quando è arrivato il decreto, il primo decreto del 4 marzo, intorno alle 18, noi stavamo a scuola, io e il mio staff, attendavamo con ansia questo decreto che avrebbe sancito la sospensione delle attività didattiche. Il primo pensiero è andato proprio agli alunni più fragili, gli alunni rom, ma non solo. Per cui ci siamo attivati immediatamente, anche se è stato un riconoscimento nazionale che la scuola, finalmente, che la scuola è la prima autentica agenzia educativa, perché al secondo dopo dell'arrivo del decreto si è fatto il deserto intorno a noi, nel senso che sono stati sospesi tutti quei progetti straordinari e si è capito che la scuola vera, autentica, è quella che lavora nell'ordinarietà puntando alle ossa e ai muscoli d'acciaio dei docenti. Quindi ci siamo ritrovati nella nostra nudità e da subito soli, operativi. E allora, qual era il problema dei rom ma anche dei ragazzi indigenti? Innanzitutto il sostentamento alimentare, ancor prima di fornirgli dei device per attuare la didattica a distanza, ma è stato il sostentamento alimentare, soprattutto per i ragazzi di Giuliano. Espletata, quindi abbiamo fatto una raccolta fondi tra noi, perché questo vuol dire sostenere anche i ragazzi, e non rompere con tutti innanzitutto questa relazione empatica. Quindi siamo partiti con l'obiettivo sovrano, precipuo, di non perdere i ragazzi e di organizzare dei percorsi che si assecondassero le esigenze. Questo è il grande tema, è il grande tema, la dispersione scolastica, che in alcune zone d'Italia è molto molto alta. Lei conosce bene questa problematica. A settembre, le chiedo, in questa grande incertezza che regna, lei ha capito come eventualmente contrastare questa dispersione scolastica? Che scuola sarà da settembre? Se l'ha immaginato lei? Sì, guardi, diceva Sant'Agostino, nel male il bene. Cioè abbiamo avuto casi di ragazzi dispersi che di solito vanno in giro. Questo isolamento forzato ha fatto in modo che loro cercassero il contatto, un contatto umano, perché i docenti hanno dispiegato tutte le loro energie, tutte le loro strategie. Quindi paradossalmente ha fatto bene per coloro che avevano abbandonato la scuola, dovendo stare non a casa, per hanno tutti, certo, alcuni hanno tentato di ricontattare la scuola. Sì, ma perché li abbiamo contattati noi, abbiamo fatto di tutto, ma soprattutto genitori che non abbiamo mai conosciuto. Poiché noi organizziamo cose inimmaginabili nella carriera mia professionale, ma lo farò, abbiamo organizzato delle serate happening con i ragazzi e i genitori ed erano i primi che si mettevano, loro dicono le finestrelle, sa, le piattaforme, e quindi addirittura qualcuno sta studiando coi figli e li faremo frequentare il corso di educazione degli adulti, perché io anche quel segmento a scuola. Quindi da un lato ci sono state queste, io le chiamo le meraviglie dell'imprevisto, così come i rom avranno, attendiamo i tablet, perché loro lavoreranno in questo modo. Ma le Leonardo Manera, un ribaltamento di prospettiva incredibile. Com'è che giustamente è bella la frase di Sant'Agostino, giustamente dal male al bene, no? Addirittura ci sono persone che sono state recuperate, non per tutti, no, chiaro. Certo, punto di vista sociale sicuramente è interessante, poi bisogna invece capire se dal punto di vista didattico c'è comunque un'efficacia di questo tipo di scuola. Allora, guardi, noi stiamo mettendo in campo, lei sa, l'informale, il non formale e il formale, nel senso che partire dalle esperienze dirette di vita, il contatto umano empatico, e poi da lì costruire dei percorsi. Per esempio, loro che hanno molto protagonismo, sa, proprio quelli un po' più difficili così, stiamo partecipando a dei concorsi, a delle iniziative. Per esempio Dire Giovani ci sta proponendo una serie di iniziative, perché loro devono esprimere dei loro pensieri su dei temi e poi si fa il montaggio. E loro fanno di tutto, perché prima devono ideare il pensiero e dopo i professori li riprendono e poi si monta. Ed è un modo, io la mi sono commossa perché il fatto che loro abbiano formulato un pensiero e lo abbiano reso pubblico con poi le valorizzazioni e le lodi, questo è stato molto importante. E guardi, io sono contenta che oggi Papa Francesco abbia dedicato nella messa l'attenzione degli insegnanti e ai ragazzi, ma soprattutto tutta l'opera altamente meritoria che stanno realizzando i docenti. Poi, certo, come sempre, ci sono gli staccanovisti, c'è l'imbucato, c'è quelli che hanno perso cari per il coronavirus. Allora io, che come dirigente tra i docenti, dico devo anche sostenere, perciò dico in questo momento, più che dirigente, io veramente sono la preside che presiede questa comunità professionale che si è unita proprio per stare al fianco dei ragazzi, ma presiede anche un fortino di istruzione, di educazione e formazione che è la scuola, e a cui allora, non si può sostituire nessuno. Facciamo così, preside Rosalba Rotondo, perché è la nostra preside, ogni tanto è la nostra antenna su Scampia. Noi ci risentiremo a settembre, o comunque insomma più avanti, ma sicuramente a settembre, perché bisogna capire come riparte questa scuola. Nel frattempo io la ringrazio molto sempre per la disponibilità che ha con noi. Ripeto, Rosalba Rotondo è preside a Scampia da decenni, quindi è lì e conosce molto bene la situazione. Presiede l'Ilaria Alpi Carlo Levi a Scampia, Istituto Comprensivo. Andiamo un attimo a sentire il traffico e poi rientriamo qui. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Ehi Milan, non è che il 4 maggio sarà come la data d'abolizione delle province? Uè Milan, ma sto Colau mica tanto giovane, eh? Ha 58 anni. È piano piano che arriva pure per lui di stare a casa. Lo so, però... Hai visto per che ora. Anche la signora comincia a pronunciare Colau, anche lei. Colau, ha detto Colau, sto Colau. Beh, dalla Task Force Falcon alla Task Force Colau. Allora, dobbiamo dire se due non cose. Ti sono ancora, sì, ma non sono ancora arrivati i messaggi di protesta quando la nostra ospite ha detto che verranno dati dei tablet ai Rom. Di solito sarebbero arrivati subito. Allora, ancora no. Ancora no, ma sicuramente non ho visto con precisione. Stimoliamo, devo dire, stimoliamo a mandare messaggi di protesta. Dai, un ringrazio po' di polemica, Fausto. Un po' di polemica. Aspettila. Ringrazio Fausto Biloslavo, collega del giornale, che mi ha scritto sulla questione delle fatture delle persone cremate. È che lo scandalo è che le agenzie mettono la fatturazione a cifra piena, mentre altri magari hanno fatto uno sconto vista la situazione. Effettivamente un lavoro è stato fatto, quello delle cremazioni. Certo, magari far arrivare la fattura a prezzo pieno, almeno uno sconto si potrebbe fare. Noi dobbiamo dire però anche un'altra cosa, Leonardo, perché noi domani eravamo attesi a Busto Arsizio per uno spettacolo di Platone, La Caverna dell'Informazione. Ovviamente non si terrà questo spettacolo, però molti ci stanno scrivendo per i biglietti, che fare dei biglietti comprati, era esaurito il teatro. Davvero? Però non siamo noi a dover rispondere, caro. No, no, pare, però io ho chiesto adesso all'organizzatore e pare che i biglietti verranno rimborsati. Quindi bisogna rivolgersi al teatro per avere appunto il rimborso di quanto pagato. Nel biglietto, va bene. Comunque, insomma, per magari quanto lo rifaremo possiamo, l'anno prossimo. Esatto, esatto. c'è Emiliano dalla provincia di Brescia. Buongiorno Emiliano. Buongiorno Milan, buongiorno Manera, sono Emiliano, chiamo da, come avete detto, da Brescia. Vi racconto un po' la nostra situazione familiare. Nel senso che io sono padre di due bambini autistici che vanno alla scuola materna, scuola dell'infanzia. Sono in zona ex zona rossa, come la volete chiamare, per cui loro sono a casa dal 20 febbraio. Uno dei due è grave, tanto è vero che ha un sussidio che è il B1 per la condizione di gravità, per cui noi ci siamo ritrovati ad un certo punto senza scuola dell'infanzia, virgola, senza l'assistente che ci mandavano 20 ore la cooperativa, senza la terapia e senza tutto questo da gestire. Poi io e la madre siamo due medici, per cui fondamentalmente abbiamo dovuto pietire perché la 104 aggiuntiva, nel senso che hanno dato dei giorni aggiuntivi di 104, però con la compatibilmente a nostre esigenze di servizio. Sì. Quindi siccome cioè siete praticamente abbandonati a voi stessi, diciamo la verità. Diciamo poi, che è piuttosto complicato, perché poi ovviamente è peggiorato il bambino, è peggiorato nel senso che non, per fortuna il dottor Zoccante ha fatto pressione, che lavora a Verona, per avere l'ora d'aria, perché sul certificato del neuropsichiatra possiamo avere l'ora d'aria, perché il bambino stava impazzendo fondamentalmente. Il problema era che ovviamente prego, io perché purtroppo il tempo corre, ci dica quest'ultima precisazione. Quindi il problema è che ovviamente materna, cioè l'infanzia o anche la primaria, i primi anni, fare comunque a distanza con tablet è impossibile. No, ma è quello che stavo dicendo io, cioè è anche un'età nella quale non è che si può fare la didattica a distanza materna. Emiliano, grazie per questa testimonianza, ma mi hanno detto che ha chiamato anche Tata Lucia, ma è vero? So che è una nostra ascoltatrice, la mitica Tata Lucia, buongiorno. È vero, Tata buongiorno. È vero, grande, che bello, io sono cresciuto, cioè vedevo tutti i programmi Tata Lucia. Esagerato, e volevo Tata Lucia a casa, ma vieni qui Tata Lucia, vieni a insegnare a me come si fa con i figli. Guarda che come era pochi anni fa, cresciuto intendevo coi figli che crescevano, sì, mi sono espresso male, i figli sono cresciuti, non è che ho 15 anni, i figli crescono sempre, i figli sopravvivono sempre a noi genitori, a noi nonni. Bello, perché ci ha chiamato Tata Lucia? Cosa dunque vuol dirci? Io ho chiamato perché io ho 78 anni, adesso tutto il mondo saprà che ho 78 anni, anche se cerco di nasconderlo. Io avrei detto 60, vabbè. Ecco, insegno ancora, lavoro ancora, insegno ancora, ne faccio di tutti i colori perché sono un'iperattiva spaventosa. E allora volevo dire questo, finalmente lo Stato ci ha dato la possibilità, riassumo in queste due frasi, di morire come vogliamo. Io ho già fatto il testamento biologico, non l'ho ancora portato in comune di Milano perché è chiuso tutto lì, il macello, però tutti i miei figli sanno tutto, il mio medico, eccetera. Perché non mi si dà la possibilità di vivere? Di vivere, cioè di uscire, e cioè di uscire. Come le faccio un esempio, io a Natale, noi, tutta la mia famiglia è qui da me e ci sono tutti, siamo 13-14 tra tutti. Allora, a Pasqua, per tradizione, siccome Pasqua dove vuoi, i miei figli vanno dove vogliono o stanno in casa in questo momento, ovviamente, io volevo andare al cimitero che è a Sesto Calende, il cimitero mio di famiglia. Allora prendo la mia macchina, sono da sola, la mia macchina è in tolsa, non contaminata, vado al cimitero che il giorno di Pasqua è vuoto, è un cimiterino piccolo. Perché non si può fare? Perché non l'ho potuto fare? Adesso finalmente, quando mi permetteranno di girare la regione Lombardia, finalmente lo farà al cimitero. Però insomma il tema lanciato a Tata Lucia, ne parliamo Leonardo da giorni, a dire molti, ecco uso questa parola con molto rispetto, anziani che dicono ma perché mi sono blindato e non posso. Non ho una risposta, come al solito qui non abbiamo risposte, caro Leonardo.

Allora, cari ascoltatori, siamo qui, la terza mezz'ora di Uno Nessuno 100 Milan, ci siamo con la commissione. Sai che cosa volevo fare, Leonardo? Chiedere a fare una sfida a Fusconi e chiedere a Elisabetta Fusconi se sa chi sia Paolo Roberto Falcao, perché secondo me lì è da un'ora che si sta chiedendo ma chi cavolo è sto Paolo, perché dovete sapere che Elisabetta Fusconi e il calcio sono come, non so, Leonardo Manera e il buddismo. Io so qualcosa di buddismo. Ah, tu sai qualcosa di buddismo? Ah, Leonardo Manera e le filosofie induiste della regione del Kerala. No, tu sai qualcosa. Secondo me l'eco di Paolo Roberto Falcao è arrivato anche a Elisabetta Fusconi. Ma non lo so. Rapidamente mi è arrivato un messaggio dell'organizzatore dello spettacolo che avremmo dovuto fare domani. Ecco. Allora dice che chi ha comprato il biglietto in teatro può fare riferimento al teatro, quando si potrà andrà e gli verranno resi i soldi del biglietto. Sì. Chi invece ha comprato attraverso Ticket One dovrà invece fare riferimento a Ticket One. A Ticket One, certo. Benissimo, adesso c'è anche Anacleto, ma io dico, come al solito, già c'è il coronavirus. Buongiorno Anacleto, come stai? Buongiorno a tutti voi radioascoltatori italiani, e poi lo sai, un messaggio speciale, viva la Chiesina. Senti, come viva sto? La Chiesina, certo, sempre. Mi hanno mandato qui alla Obi a Prato, mi si è rotto un pezzo della doccia, sono qui che con la fila. Per acquistare questo pezzo a Prato, si è rotta la doccia, è tutto molto interessante. Ti si è rotta la doccia, esattamente che pezzo della doccia? Che sono una sega, come si chiama questo pezzo? Qui me l'hanno dato, dice vai a vedere se te lo danno uguale, ma io credo che non ce la faccia mia. Io ho 65 anni, ma di testa no. 20, 25. E come fai se ti chiudono i sessantenni? Come fai, caro Anacleto? Già, è quello che ci pensavo anch'io. È quello che ci... Senti, le serie di Netflix le ho viste quasi già tutte. Tutte. E che devo fare? Sto qui, leggo un po'. Fa un po' di meditazione, perché dopo pranzo c'è un'ora di meditazione. Ma quella è penso io. Ma no? Tu te lo vedi Manera a meditare? Manera, te lo vedi a meditare, Anacleto? Accidenti a voi, vi sento sempre con piacere. Senti, ora oggi la mia socia l'ha fatto. Patate arroste cotto in forno con bistecchine di maiale rosticciana. Non potresti andare dalla suocia. Mannaggia te, Anacleto. Lo sai, mandare un messaggio alla mia amica, siamo amici, no? Mi mandai ora il nome, non te lo faccio per correttezza. E gli dissi: lo sai che fra te nuda e un Negroni? Scelgo un Negroni, gli dissi. l'avrà presa benissimo Manera, secondo me, la battuta, questa sua amica. Sì, ma a me mi manca un po' di Negroni, ha detto mia che sei grullo. Ciao Anacleto, stai lì in fila per la doccia. Ciao a tutti, viva la Chiesina, ciao. Viva la Chiesina, sempre Chiesina Uzzanese, ovviamente dove... Vabbè, Luca Perri, benvenuto. Ci dispiace che la tua scienza sia messa al servizio di questo mercato così comunale all'aperto o in radio, ma così è. Luca Perri è il nostro astrofisico. L'altra volta eravamo rimasti con il dubbio del 5G. Non abbiamo approfondito perché ci sono tante bufale, devo dire, tante tematiche sulle nuove reti cellulari che provocherebbero l'epidemia. Non ho capito neanche come, secondo queste teorie. Non l'ha capito nessuno in realtà, e credo neanche chi le ha diffuse, perché parlano ad esempio del fatto che le frequenze del 5G aiutino i batteri a comunicare meglio. Peccato che il coronavirus non sia un batterio, quindi è già per definizione. Quindi non so neanche se loro abbiano compreso bene quale sia il meccanismo, probabilmente no, ecco, perché anche però un complotto non che si rispetti ha almeno una sorta di fondamento di credibilità, sì. Nel senso, una teoria se no. Allora, diciamo che esiste in ambito bufalaro e poi di debunking, cioè di smantellamento bufale, una tecnica che si chiama cherry picking, che vuol dire raccogliere le ciliegie. Sostanzialmente io vado a raccogliere quelle che sono le informazioni che danno un appoggio alla mia teoria e ignoro tutte le altre. E quindi diciamo che questa teoria del 5G si basa su un cherry picking dovuto alle date. Loro dicono la grande epidemia che tutti ricordiamo, pandemia, qual è? La spagnola. La spagnola è fra il 17 e il 20. Quindi perfetto, cosa c'era fra il 1917 e il 1920? Le onde radio, quindi onde elettromagnetiche. Poi dicono, vabbè, ma c'è stato anche nel 69, in Italia l'abbiamo chiamata la spaziale, era un coronavirus anche quello, in teoria doveva essere chiamato influenza di Hong Kong e in Italia fece 20.000 vittime. Cosa c'era nella fine degli anni 60? I satelliti, e quindi l'era dei satelliti e quindi nuove radiazioni elettromagnetiche. Sì, esattamente, vedo che stiamo arrivando alla stessa conclusione e adesso dicono, adesso c'è il 5G e c'è il coronavirus. Peccato che queste cose noi le uniamo. C'è anche il Cristiano Ronaldo, la Juve che vince. No, io però, insomma, quindi io sono già convinto. La cosa più interessante è che, esatto, ma la cosa più interessante è che le date sono sbagliate, nel senso che le onde radio non iniziano a esserci, a essere utilizzate nel 1917. Giusto per fare un esempio, il Titanic affonda nel 1912 e quelle poche persone che si salvano rispetto al totale si salvano perché il Titanic manda un SOS via radio. Quindi però interessante questo, attenzione, perché Luca, noi abbiamo Leonardo Manera che è proprio l'emblema vivente, lui è già abbastanza convinto, quindi abbiamo un esperimento in diretta. Come si fa a togliermi questa convinzione? Come si fa? Allora, infatti, uno dei metodi è andare a verificare queste ciliegie che sono state raccolte per vedere se hanno un fondamento. E in realtà, appunto, non ce l'hanno, le date sono tutte sbagliate. Se io parlo del 69 dicendo c'erano i satelliti, beh, il primo satellite è del 57, quindi perché ci mette 12 anni ad arrivare questa nuova influenza? Il 5G, perfetto, il 5G adesso tutti ne parliamo in Italia, ma in Corea del Sud si è iniziato ad utilizzare in maniera pesante già da 2 anni, quindi perché si sono ammalati solo nel 2020? Tra l'altro, se vale questa correlazione 5G-coronavirus, dovrebbe valere sempre e dovrebbe valere in tutti i luoghi colpiti. L'Iran, che è uno dei luoghi più colpiti dal coronavirus, non ha il 5G. Quindi perché dovrebbero vabbè, avere... C'è sempre l'eccezione che conferma La regola. Allora se ne do un'altra. L'India non è che abbia proprio tutte queste antenne 5G, eppure sono in difficoltà anche loro. Ma sì, a maggior ragione, facciamo finta che Wuhan sia piena di 5G. Perché adesso a Wuhan hanno arrestato l'epidemia? Non hanno spento le antenne 5G. Quindi che cosa è successo per far sì che i batteri che poi sono virus hai convinto me. Leonardo se Leonardo Manera io penso che Luca Perri sia prezzolato dal 5G. No, guarda, perché allora, questa è l'ultima e questa ricevuto, è l'altra variabile che non abbiamo tenuto in considerazione. Quanti prendi soldi prendi tu dal signor 5G? Signor 5G prendo un sacco di soldi, evidentemente, così come ne prendo dalla CIA per nascondere gli alieni e così come ne prendo da tante altre cose. Però ecco, in teoria se io voglio dimostrare una teoria, più forte è la teoria che devo dimostrare, più forti sono le prove che devo portare. Delle prove che vengono smontate in una conversazione di 5 minuti, secondo me non sono abbastanza forti da portare avanti questa teoria. Tra l'altro sul 5G in generale diciamo che le bufale aumentano, in particolare in questo periodo, ma in generale come ogni volta che c'è un nuovo standard delle telecomunicazioni. Ho visto addirittura che ci sarebbe, sarebbe stato avvistato un UFO, questo leggevo, giuro, ieri, qualcuno ha detto è stato avvistato un, sono stati avvistati gli alieni sull'Italia, un UFO, non lo so, era forse un riflesso nel cielo, non lo so, e hanno legato questo, l'UFO, il Covid e il 5G. Il 5G c'è sempre. Cioè... Ma perché il 5G faceva da faro traente, in che modo hanno legato l'UFO? Ma no, non lo so, non lo so, avvisa, sono gli alieni che vengono in qualche modo a fare il complotto con 5G, con la... sì, insomma. A memoria, a memoria fa un bel mischione, metti tutti insieme qualcosa verrà fuori. A memoria di Luca Parri c'è qualche apparente bufala che poi invece si è rivelata reale? Allora, bella domanda, in realtà ci sono delle cose su cui ancora stiamo cercando di capire. Banalmente, una cosa su cui che è nata all'inizio come una convinzione, poi è diventata una leggenda metropolitana, poi di nuovo hanno discusso, sono le uova e il colesterolo, che a me venga in mente, cioè su quanto un apporto di uova, di proteine date dalle uova, possa poi influenzare, se il consumo è regolare, il colesterolo. Su questa cosa ne discutono da decenni, che io sappia, e non so se hanno ancora raggiunto una qualche soluzione. Però sì, su grosse bufale che poi si sono rivelate reali non me ne vengono in mente, principalmente perché quando si sparge una bufala si dà anche un sottotesto legato al complotto, e i complotti per definizione nella scienza non possono esistere, per il semplice fatto che più persone conoscono un segreto e più è difficile che questo rimanga tale, e gli americani hanno un detto molto statunitense che come faccio a mantenere un segreto fra tre persone, sparo alle altre due. Molto statunitense, ma in generale hanno ragione, cioè quando anche si parla del complottone, del falso allunaggio, come faccio a far mantenere un complotto, un segreto fra 500.000 persone che erano quelle che lavoravano al programma spaziale statunitense per 50-60 anni? È praticamente impossibile. E quindi diciamo che già l'idea stessa di complotto nella scienza è fallace, quindi anche le grandi bufale di solito si rivelano tali. Allora, noi ti ringraziamo molto, Luca Parri, per questa delucidazione. Dobbiamo andare di corsa al traffico, perché poi abbiamo un ospite che ci parla dal Messico, per lui è piena notte, un ascoltatore, insomma, abbiamo ancora cose da dire, tra un attimo. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui alle 10:22 minuti, c'è Agostino dalla provincia di Roma. Buongiorno Agostino. Buongiorno. Che ci dice? Pronto, mi senti? Benissimo, vada. Sì, senta, io volevo dire una cosa molto semplice. Io faccio il giudice tributario, ho 74 anni e sono in servizio fino a 75. Nelle altre magistrature ci sono colleghi che sono in servizio fino a 72 anni. Quindi, poiché l'11 abbiamo già in programma la riapertura delle udienze, per essere chiari, con i fascicoli assegnati, se qualcuno avesse in mente di tenere ancora gli over 65 a casa, come fa? Sa come che cosa potrebbe succedere? Se forse chi ha la fortuna di avere un giudice di età inferiore a 64 anni potrà far valere o meno le proprie ragioni in sede giudiziaria. Chi purtroppo ha avuto, diciamo, la sfortuna di avere qualcuno anzianotto come il sottoscritto, si vedrà vedere la sua cosa. Ma guardi, Agostino, lei che è anche giudice, sa benissimo che non potrà essere fatto un obbligo, è anticostituzionale, a parte che si parla dei 60 anni, non dei 65, ma non potrà essere fatto un provvedimento anticostituzionale, al limite si potrà dire vi invitiamo a non uscire di casa, ma non vi obblighiamo. Quindi, però certo il tema è questo, Agostino è un giudice di 74 anni, come fa se non può riaprire i fascicoli? È un bel tema, però nel ringraziarla Agostino, io vorrei collegarmi, credo che sia mattino presto, se non tarda notte, con il Messico. Siamo collegati su Skype con Francesco Ottani. Ciao, buongiorno Francesco. Francesco, da dove ci parla? Ciao, che ore sono lì? Qui sono le 3:23 in questo momento. Stupendo. Diciamo eppure notte inoltrata. Obbligato a una diretta su Radio 24, questa è la vera tortura. Allora, Francesco Ottani, esatto, è un musicista di Reggio Emilia ed è rappresenta, insomma, è portavoce di una serie di italiani. Quanti bloccati da dove, da quando in Messico? Spiegaci tutto. Allora, guarda, la settimana scorsa siamo partiti con questo video appello per trovare un volo garantito per l'Italia, eravamo più o meno 150. Abbiamo mosso l'ambasciata per fare, e loro hanno iniziato a fare il conteggio un po' di quelli che eravamo, siamo arrivati a 350. Questa settimana, dopo il conteggio che è stato fatto esattamente lunedì, già siamo arrivati a oltre 400. Quindi diciamo che stiamo crescendo giorno dopo giorno, ci sono sempre più persone che vogliono… Cioè italiani in Messico che vogliono tornare a casa. Che vogliono ritornare a casa, esatto. Il nostro appello è stato accolto in parte, nel senso che proprio oggi, notizia fresca, è stato disposto un volo da Blu Panorama per il 6 di maggio. Il problema è che questo volo accoglierà solo 140 persone. Ragazzi, cioè, io dico adesso va bene tutto, cioè 6 di maggio, quindi stiamo parlando di 10 giorni. E più neanche tutti perché non possono viaggiare a pieno carico, evidentemente, per la questione di sicurezza. Non possono viaggiare a pieno carico, mi verrebbe da dire, però almeno facciamo mettete 4 aerei, tre volte facciamo lo stesso aereo che viaggia 3 volte. E ci sono perché il 6 maggio ci saranno delle procedure, immagino la burocrazia, no? Ma io credo anche per darci il tempo a noi di prepararci e comunque comprare i biglietti. I biglietti sono a un prezzo esorbitante, 1450 euro a persona, quindi una famiglia come noi che siamo due più una bimba di 3 anni dobbiamo sborsare quasi 4000 euro. C'è anche un altro problema che abbiamo trovato ed è molto facile, vai sul sito della Comunità Europea e trovi che c'è un fondo che si chiama UCPM, che è un fondo monetario che è stato dato agli Stati membri, dove sono stati stanziati 80 milioni per il rientro in patria dei connazionali. Quindi voglio dire, i soldi ci sarebbero, i soldi ci sarebbero, ma l'Italia è andata via, forse dato via un attimo il collegamento su Skype. L'Italia invece l'avevano rimasti qui. L'ha utilizzato il 21 febbraio per il volo di Tokyo e basta. Li hanno utilizzati tutti gli altri stati membri, in primis la Germania con un centinaio di voli. Poi dopo ci sono la Francia dietro coda, c'è la Finlandia, la Repubblica Ceca. Allora, facciamo questo appello per quanto possiamo, non il nostro piccolo. Perché, Leonardo, cioè, voglio dire, parliamo sempre dell'Italia, che giustamente siamo italiani. Perché Francesco Ottani ci sta dicendo ci sono dei soldi stanziati dall'Unione Europea, altri stati hanno rimpatriato i loro concittadini e invece noi l'abbiamo fatto dal Giappone e invece non l'abbiamo fatto dalla Bolivia l'altra volta, ti ricordi Leonardo, abbiamo parlato del caso della Bolivia, ma ci stanno scrivendo in tanti. Anche perché non adesso credo che il ritorno al Giappone sia costato 80 milioni di euro, insomma. No, cioè, esatto. Ci saranno ancora e poi fondi residuali. Ci saranno fondi e invece qui dicono c'è un aereo ma solo per 150 persone e non 400 il 6 maggio e dovete pagare 1.400 euro a biglietto. Ma io non lo so, voglio dire, vabbè, Francesco, come state vivendo questa situazione di isolamento lontano da casa? Guarda, sinceramente varia da stato a stato, perché poi il Messico è grande. Il lockdown, diciamo, è stato impartito nell'ultima settimana qui in Quintana Roo, che è lo stato più orientale, quello che si affaccia sul Mar dei Caraibi. Diciamo che la maggior parte degli italiani che vuole rientrare è concentrata in questa zona perché è la zona più turistica, quindi ci sono turisti che sono stati piombati qua da altri stati sudamericani. Faccio certo. riferimento a tanti che magari erano in Colombia, Bolivia, così, e gli hanno detto: ragazzi, dovete tornare a casa, e c'erano voli solo per il Messico perché è stato l'unico stato che non ha chiuso le frontiere aeree. Okay. Altri sono qui per. Sì, sì, adesso si sta lì, cioè questa è la situazione, no? Ma io dico come si vive anche dal punto di vista psicologico. Però facciamo così, perché siamo in conclusione. Noi, nel ringraziare Francesco Tani, ripeto, portavoce degli italiani bloccati in Messico, ci siamo occupati della Bolivia. Scriveteci via mail se ci seguite da qualche parte del mondo, se siete a conoscenza di altri italiani che vorrebbero rientrare. 100milan@radio24.it. E dopodiché abbiamo scoperto che ci sono dei fondi europei per farli rientrare. E facciamoli rientrare questi italiani inutilizzati. E che cavolo, non cioè, è una novità, poi si dice tra sempre, l'altro spesso i fondi l'Europa non vengono utilizzati. Sì, l'Europa però la Germania ha fatto centinaia di voli, la Francia pure, e a lei, e noi uno da Tokyo. Buonanotte a Francesco Tani, anche se l'abbiamo, come dire, svegliato in piena notte. Caro Leonardo, domani è sabato, pure 25 sì. aprile, domenica. Mi sono un po' malinconito perché io sono stato lasciato in Messico. Sì, faccio il grido, sono stato lasciato in Messico anni fa. Vabbè. È vero, vabbè. Ce l'avevi raccontata, vabbè. Sì, la teniamo sì. per lunedì, la riraccontiamo bene. Il tuo urlo di battaglia per tutto il weekend. 10 giorni alla fase 2. A lei, a lunedì. Nessuno, 100 Milan.